Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al Quadrifoglio vogliamo raccontare un'esperienza particolare, quella di una famiglia rimasta a vivere nella zona industriale, quindi ai margini della prima periferia di Padova, dopo gli espropri degli anni 90. Una casa colonica del fine del 600 che oggi è diventata la sede di alcune iniziative come orti sociali ma anche iniziative culturali, grazie a Stefano Pagnin che cerca di tenere viva la memoria di quello che era la storia del luogo e di quella zona nonostante l'avanzata della zona industriale. Benvenuto Stefano. Grazie. Allora, come e perché è nata questa esperienza? Beh, l'esperienza del circolo Wigwam Il Presidio è nata in un momento di disperazione, nel senso che noi come famiglia siamo rimasti abbandonati da tutti nella zona di Camin. Non so se tutti sanno la storia della zona industriale di Padova, che è cominciata con espropri forzosi nei primi anni 50 ed è continuata per più di 40 anni, finché ha occupato gran parte della campagna del paese di Camin. Noi siamo rimasti gli ultimi espropriandi della ZIP, e per cercare un po' di resistere all'avanzare dei capannoni ci è venuta l'idea di fare un circolo culturale a casa nostra e nei terreni immediatamente adiacenti, recuperando un po' le nostre tradizioni, il sapere che avevamo, il sapere rurale, quindi il coltivare il terreno, produrre cibo e soprattutto condividerlo con gli altri, ad esempio facendo delle feste rurali oppure iniziative di vario genere, teatro, presentazioni di libri, tutto nell'aia della nostra casa. Ecco, quindi in queste iniziative culturali ma anche un orto nel quale varie persone vengono a coltivare, una sorta di orti sociali, orti urbani, privati. Sì, anche questa è stata un'esigenza piuttosto importante, perché nei terreni vicino a casa nostra, che sono stati abbandonati da più di 20 anni, erano rimasti incolti e quindi praticamente preda a ogni tipo di sversamenti di rifiuti, eccetera. Quindi abbiamo pensato di ripulirli e di renderli disponibili ai nostri soci, facendo un'attività appunto di orti sociali. Adesso abbiamo 15 soci che si coltivano un pezzetto di terra da noi. Il terreno non è nostro, però per diciamo concessione bonaria della zona industriale noi continuiamo a fare questo lavoro, insomma. E oltre alla coltivazione dei prodotti per l'autoconsumo fate anche un lavoro di raccolta di semi rari in collaborazione con altre associazioni. Sì, qualche anno fa siamo venuti in contatto con Civiltà Contadina, che sono i custodi dei semi antichi Seed Saver. Ci è piaciuto il loro progetto, che è quello di recuperare la biodiversità che una volta popolava tutti i nostri orti, i nostri campi, e quindi con loro da qualche anno abbiamo avviato un orto antico in cui ci siamo presi in carico alcune antiche varietà di pomodori, di melanzane e di altri ortaggi e cerchiamo di portarli avanti in purezza, proprio perché non venga disperso questo patrimonio immenso di biodiversità. Ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri. Siamo la risata dentro il tunnel degli orrori. Siamo la promessa che non costa niente. Siamo la chiarezza che voleva molta gente. Siamo il capitano che vi fa l'inchino, Siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino, siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi, siamo le ragazze nella sala degli specchi. Siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio. Siamo l'arroganza che non ha paura, siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo l'opinione sotto libro paga, siamo le riunioni qui nel retro di bottega, siamo le figure dietro le figure, siamo la vergogna che fingiamo di provare. Siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio. Siamo la vittoria della tradizione, siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo la freddezza che non ha paura, siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del Circolo Wigwam Il Presidio, un baluardo di memoria storica al confine della zona industriale, e ne stiamo parlando con il factotum promotore Stefano Pagnin. Parliamo di questo circolo oggi perché è anche diventato un po' un simbolo, un po' della resistenza al cemento che avanza, sia per le iniziative che sta facendo e anche per il lavoro di recupero della memoria storica. Non a caso solo in quest'estate è stato visitato per esempio da personaggi come Marco Paolini, da padre Adriano Sella, dei nuovi stili di vita della diocesi di Padova, o anche da Don Albino Bizzotto durante un po' lo sciopero della fame che ha portato avanti quest'estate. Ecco. Qual è il significato di tutto questo? Beh, il significato è comprensibile se uno sa i dati della cementificazione in Italia. In Italia spariscono, e nel Veneto soprattutto, 38 ettari al giorno di suolo agricolo che vengono cementificati o asfaltati. È un dato terrificante. E questo crea un sacco di problemi ambientali e non solo, insomma. Noi ci siamo trovati, come dire, dalla parte sbagliata della barricata per tanti anni, perché per cercare di resistere all'avanzare della zona industriale, da soli ci abbiamo rimesso parecchio della nostra vivibilità in quella zona. Da un po' di anni a sta parte, da quando abbiamo cominciato a fare l'attività del circolo culturale, questo ci ha dato molta visibilità e soprattutto il supporto, appunto, anche di personaggi famosi che hanno conosciuto la nostra storia e hanno voluto aiutarci con un segnale, una presenza è un simbolo proprio forte. Da un anno a questa parte è partito anche il progetto del Parco Agropaesaggistico Metropolitano di Padova e Provincia, che è stato ideato da Lega Ambiente WWF e altre associazioni di Padova, e a cui noi partecipiamo ormai da parecchi mesi, di cui siamo diventati un po' il simbolo, tanto che appunto anche Lega Ambiente ha fatto la sua prima biciclettata quest'anno da noi, è venuta in visita al presidio. Tutta questa serie di iniziative che vi pongono un po' al centro dell'attenzione, cosa avete in programma poi nel prossimo periodo? Quali sono le prossime iniziative? Beh, adesso ci riposiamo perché le nostre attività si svolgono essenzialmente all'aperto da marzo a settembre, e quindi ci rivediamo l'anno prossimo per le attività, quelle culturali ufficiali, che partono di solito con la festa di primavera intorno a metà aprile, primi di maggio, poi i vari spettacoli teatrali o cinema sotto il portico. Continua comunque la nostra attività di cultura e coltura, soprattutto negli orti sociali, quindi tutti i giorni noi abbiamo degli ortolani che vanno nel loro pezzo di terra, si coltivano il terreno, si scambiano anche informazioni tra di loro e hanno ricreato un po' un tessuto sociale che in quella zona era disperso da tantissimi anni. Quindi se passate a trovarci, magari non vi offriamo cultura, però un po' di cultura sì. Ecco, voi siete aperti anche se è inverno, appunto alle visite di chi ha voglia di fare un giro da quelle parti e conoscere anche la realtà. Come fare per trovarvi? Beh, noi siamo in via Gramogne, numero 41, praticamente la zona dietro Padovaland, nella prima periferia di Padova, a Camin. C'è anche un sito internet, se volete lo cercate sul motore di ricerca Circolo Wigwam il Presidio e vi uscirà il sito internet immediatamente. Wigwam con due W. Sì, Wigwam è l'associazione nazionale a cui siamo affiliati da 10 anni, ha sede a Piove di Sacco, ma è un'associazione che raggruppa più di 300 circoli che si occupano di sostenibilità ambientale e di qualità della vita. Bene, grazie Stefano. Passiamo adesso alle consuete notizie e lo facciamo ricordando un appuntamento sul quale torneremo nelle prossime settimane, ovvero che si terrà l'11 e il 12 novembre a Varsavia, in Polonia, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Un appuntamento importante nel quale, secondo gli auspici del Parlamento europeo, che ha votato una risoluzione in proposito a grande maggioranza, si dovranno fissare tempi e modalità per gli impegni di riduzione dell'anidride carbonica nel 2014, in vista dell'accordo globale vincolante che sarà definito a Parigi nel 2015. L'Europarlamento ha ribadito l'offerta dell'Unione di arrivare a un meno 30% di riduzione di CO2 per il 2020, se altri paesi grandi emettitori di gas serra si impegneranno con analoghi obiettivi. Cambiamo argomento. Se i dati statistici confermano il calo di consumo del vino in Italia, si moltiplicano però le manifestazioni per fare conoscere e degustare questo prodotto. Diamo notizia oggi di due eventi rivolti agli appassionati, uno consolidato e una new entry. Cominciamo da quest'ultima. Dall'1 al 3 novembre si tiene alla Fiera di Padova, in concomitanza con la tradizionale manifestazione Tutti in Fiera, Vini in Fiera, un evento centrale di un calendario di appuntamenti denominato Wine in the City, che sta promuovendo degustazioni in molti locali della città. 3 giorni di degustazioni, assaggi e acquisti di prodotti di una quarantina di aziende, principalmente del Triveneto. Oltre al vino, con sapori e territori il visitatore potrà esplorare, assaggiare e comprare anche prodotti tipici a chilometri zero, naturali e biologici. L'ingresso all'evento costa 7 euro. La settimana successiva gli appassionati di vino si possono invece spostare a Merano dal 9 all'11 novembre per uno degli eventi più esclusivi del mondo del vino, il Merano Wine Festival. Anch'esso ormai ampliatosi all'intero mondo del gusto, visto che vi si affiancano le sezioni denominate Culinaria, Beer Passion e Gourmet Arena. Quest'ultima è una sorta di esibizione del talento di grandi chef. Si inizia però già venerdì 8 novembre con Biodinamica, una giornata dedicata a 60 cantine che praticano viticoltura biologica, biodinamica e naturale. Nel 2012 il Merano Wine Festival ha visto la presenza di più di 600 aziende, con oltre 1200 vini diversi e 500 prelibatezze in degustazione. Un consiglio: non andateci in auto e rivolgetevi piuttosto a una delle molte associazioni di sommelier che organizzano ogni anno dei pullman per l'occasione. Il prezzo d'accesso è elevato, ma per gli appassionati pienamente giustificato. Chiudiamo informando che è stato presentato nei giorni scorsi, nell'ambito del progetto AdriaWet 2000, un protocollo per il monitoraggio faunistico. Esso prevede in particolare una piattaforma informatica per la condivisione pubblica dei dati raccolti in 5 aree naturali costiere alto-adriatiche: la riserva Valstagnona Capodistria in Slovenia, la riserva naturale delle Foci dell'Isonzo, la zona di protezione speciale Valle Vecchia a Caorle, la riserva naturale di Bosco Nordio a Chioggia e l'oasi di Camello a Porto Tolle. La piattaforma informatica potrà consentire a chiunque di consultare le presenze delle varie specie animali nelle aree coinvolte. Informazioni sul sito www.adriawet2000.eu. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e vi invitiamo a riascoltarci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.